Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Resto fermo in preda ad un'ammirata eccitazione sulla soglia della mia nuova camera. Non l'ho ancora conquistata, come mia sorella, che docile disegna gattini seduta alla grande scrivania. Ma c'è tempo tutta una vita per farlo. Mi chiamo Alberto Rossi, ho 33 anni e vivo da sempre a Verona Nuova, un paese in provincia di Brescia. Sono sposato da 4 anni, sono un consulente finanziario che non ama usare il cellulare e guidare la macchina e tra poco avrò la gioia anche di diventare padre. Se mi avessero chiesto o se mi chiedessero indicami una puntata o un racconto particolare che ti è arrivato per raccontare il programma. Ecco, io probabilmente, non perché lo faccio oggi, o forse sì perché lo faccio oggi, quindi mi si è accesa una lampadina leggendola, rileggendo il racconto di Alberto, io indicherei questa puntata qua, perché questo è proprio un racconto che indica quei piccoli episodi che non sono magari particolarmente divertenti, come alcune storie che ci sono arrivate, non sono eccezionali come altre, straordinarie, non sono nemmeno tristi, c'è forse una vena di malinconia in questo racconto, ma semplicemente perché è un racconto dell'infanzia. Eppure questa è proprio una storia che racconta quei piccoli splendidi episodi che raccontano tantissimo della persona che li ha scritti, che li ha vissuti prima ovviamente e poi li ha scritti. Quindi io Alberto non sapevo che voce avesse, l'ho sentita oggi quando ho ascoltato la sua voce un attimo fa, quando l'avete sentita anche voi, e mi ero immaginato un'altra voce, però ho la sensazione un pochettino di sapere qualcosa di lui, poi magari mi sbaglio, ma vediamo più tardi. 349 238 66 66, oppure voi siete qui @radio24.it. È la storia di un ingresso in una nuova casa, la storia di oggi. È la storia di un bambino che arriva con tutta la famiglia, trasloca in una casa nuova e quindi sente gli odori della casa nuova, ci visita le stanze nuove, guarda fuori dalla finestra e vede il panorama che non aveva mai visto dalla casa vecchia, ed è nuovo anche quello. Esce, torna e se la gusta tutta quella casa. Quindi la cosa che semplicemente chiediamo oggi è di raccontare qual è quell'oggetto che vi portate come prima cosa in una casa nuova, che vi siete portati dietro negli anni o che magari avete recuperato a breve e che state portando nella casa nuova se state cambiando, o che vi porterete se mai lo farete. 349 238 6666, oppure voi siete qui @radio24.it. Se fossi in voi però io adesso mi fermerei davvero quei 5 minuti per sentire con calma la storia di Alberto. Mi spogliai ed entrai ubbidiente nella grossa vasca da bagno. Il sole del primo pomeriggio di sabato filtrava caldo e generoso dalla finestra, nonostante l'ottobre ormai inoltrato. Papà e mamma s'aggiravano per la casa sistemando le ultime cose. La nostra nuova casa. La nostra prima casa, dopo gli anni passati in affitto nel grosso appartamento senza riscaldamento e senza linea telefonica. Ora il calorifero del bagno era lì a fissarmi e a dirmi rassicurante che potevo stare tranquillo. Con lui in casa non ce n'era per l'inverno. Mentre giocavo con l'acqua calda guardavo quelle pareti così nuove e familiari nello stesso tempo. L'occhio correva sulle piastrelle sfumate di rosa antico e piene zeppe di piccoli punti neri, fino ad arrivare al grande specchio che una volta salito in piedi sul bordo della vasca poteva contenermi tutto. Il tempo in cui mi fate il racconto avevo 10 anni, fino allora ero vissuto in un paio di appartamenti in affitto, appartamenti senza riscaldamento, senza linea telefonica, quindi l'idea di entrare in una nuova casa che sarebbe stata nostra, che aveva dei caloriferi magnifici e che avrebbero riscaldato le stanze, per un bambino di 10 anni era una cosa eccitante, diciamo. È tardi, grida mamma. Esco e mentre mi adagio in un soffice accappatoio la vedo attraverso la porta, inghiottita per metà dal grande armadio. Mi asciugo male come al solito e comincio a vestirmi. È tutto già pronto sul portabiancheria. Devo fare solo attenzione a non infilarmi nulla al rovescio. Che se mi sento poco bene e mi devono portare all'ospedale, mamma fa una brutta figura. Eccola, si affaccia alla porta. Allora, sono pronto. Resto fermo in preda ad un'ammirata eccitazione sulla soglia della mia nuova camera. Non l'ho ancora conquistata come mia sorella. Lei è lì, docile, disegna gattini, seduta alla grande scrivania. Ma c'è tempo una vita. Sarà un approccio graduale. Recupero la mia cartelletta di plastica e, come ogni sabato di catechismo, guardo ammirato il colorato adesivo rubato da una rivista di mia sorella. Duran Duran. Non so che significa, ma il nome evoca posti lontani. Guerrieri come Conan il Barbaro. Scendo le scale e penso che è bello avere delle scale in casa. Saluto e sono già fuori, destinazione oratorio. Il catechismo di quel tiepido sabato mi attende e poi sarò di nuovo a casa, la mia casa. Terminata l'ora, non mi trattengo nel grosso cortile. Oggi non c'è pallone o ragazza che tenga. Ho un discorso da riprendere con una certa camera da letto. C'è da conoscersi meglio. Giunta la sera, non riuscivo a trattenermi dall'abbracciare quello stupendo calorifero, mentre papà ripeteva per la 82esima volta a mamma quanto caldo facesse e quale magia conteneva quel piccolo scatolino illuminato che chiamavano termostato. Per quella sera anche lei lo riascoltava volentieri, mentre controllava la pasta. Dopo cena accendemmo il televisore, democraticamente collocato nel salotto semivuoto. Una frizzante musica si diffuse per l'aria e mentre un colorato cantastorie narrava del girovagare di Robin Hood, io e mia sorella esultammo, prendendo posto sulle soffici imbottiture delle sedie. Al termine del film avevamo fame. Ci sedemmo tutti attorno al tavolo e papà, con mano sicura, aprì un grosso sacchetto di biscotti. Subito le mani corsero veloci. Ci guardavamo in silenzio, sorridenti, mangiando i biscotti. Sapevano di uova, panna, semplicità e sacrificio. Non ne ho mai più mangiati di così buoni. La notte ormai chiamava sonno. Per la paura del buio attesi che anche mia sorella si lavasse i denti e poi salii con lei in camera, pensando amaramente a quanto coraggio avesse lei più di me. Ci infilammo sotto le coperte e spensi la luce. Pensai a mio cugino, che dormiva di là dal muro, nella villetta adiacente. Pensai a mia madre, mentre mi diceva che quando avrebbero finito di pagare io avrei avuto già 25 anni, cioè mai. Sfiorai i muri e anche se ero piccolo sapevo che ogni mattone di quella casa era nato dal suo sudore e da quello di papà. Pensavo che per molti anni forse avrei indossato vestiti usati, forse avremmo dovuto rinunciare al mare, alle patatine, alla Coca-Cola. Eppure quella sera mi guardavano dolci e sereni. Li amavo e mi dispiaceva per le volte che li avevo e li avrei delusi. I miei genitori sono sempre stati e lo sono tuttora delle persone che per i figli darebbero tutto e oltre, tant'è che erano due operai e si sono sempre fatti un mazzo tanto per dare a me e a mia sorella la possibilità di fare qualcosa di più nella vita, tant'è che siamo riusciti entrambe ad esempio a laurearci, con grandi sacrifici loro dal punto di vista economico soprattutto. Quella notte non riuscii a dormire per l'emozione di trovarmi nella nuova casa. Osservai a lungo attraverso la finestra, ancora sprovvista di persiane, una casa che sorgeva poco distante dalla nostra. Una stanza era illuminata. La luce rimase accesa fino all'indomani. E io mi chiedevo chi ci fosse al di là di quel vetro, cosa stesse facendo, pensando, quale dolore, preoccupazione o gioia lo costringesse a vegliare quella notte di ottobre. Quella notte la veglia fu dolce. Oggi a volte rifletto su quel giorno e due sono i pensieri. Il primo è che evidentemente qualcuno l'aveva dimenticata accesa quella luce. Il secondo invece è decorato con i sorrisi dei miei genitori e di mia sorella mentre mangiavo quei deliziosi biscotti. Quei biscotti che di così buoni non ne ho più mangiati. Ten decisions shape your life. A differenza di Alberto, io sono nato e cresciuto nella stessa casa. È una casa che si trova in un paese della provincia di Novara, in mezzo alle risaie e ai campi di grano turco. Si chiama Romentino il paese e la via è quella delle scuole elementari. I miei ci sono entrati da sposati e ci vivono ancora in quella casa, da più di 40 anni. Ci sono foto di quel posto in cui loro sono giovanissimi, vestiti da sposi e la porta d'ingresso è la stessa di oggi, solo di un legno più chiaro e lucido, ma la stessa. Negli anni ci hanno fatto un sacco di lavori, hanno allargato la cucina, hanno trasformato il salotto in una camera singola per me, hanno cambiato il colore alle pareti, il materiale dei pavimenti, ma non hanno mai fatto un trasloco, e io nemmeno, fino a che sono rimasto là. Ecco perché non ho ricordi di bambino legati ad una casa nuova come quelli di Alberto. Non so che sensazione diano una cameretta nuova, un nuovo odore nelle stanze e un panorama diverso dalle finestre. Però quando sono uscito di casa, come molti, ho fatto diversi spostamenti. E l'ultimo è quello che ovviamente mi ricordo meglio. Ne ho già parlato, ne ho già raccontato una parte lo scorso anno. Però ho deciso di ritirare fuori quella pagina di diario in cui mi trovavo da solo, in una casa nuova e completamente vuota. Stare da solo concilia il pensiero, anzi, a dire la verità, a stare da solo non si fa altro che pensare. L'altra sera mi sono ritrovato in casa, nella nuova casa. Ero da solo e la casa era vuota. Avete mai provato a non pensare a niente? Alcuni dicono che sia impossibile, altri invece sostengono che con un lavoro di meditazione si possa raggiungere proprio quello spazio vuoto che sta in mezzo ai nostri pensieri. Io ero in una casa che non conoscevo, in mezzo a delle pareti spoglie, senza nemmeno un mobile o un quadro, senza nulla che potesse ricordarmi di me, di quello che ero stato e tantomeno di quello che potrei diventare. Mi sono messo ad ascoltare i suoni di quella casa vuota e quando ascolti quei suoni ti rendi conto che il silenzio di una casa è l'insieme dei silenzi delle case che gli stanno intorno. Ci sono appartamenti sopra e sotto di me e persone che ci vivono e che parlano, si muovono, cantano, urlano. Di fronte a casa mia, in quella che prima era la falegnameria, c'è una famiglia con tre figli. I genitori avranno più o meno la mia età. I bambini giocano attorno al divano mentre il papà guarda la televisione e la mamma sistema la tavola prima di metterli a letto. Tutto sembra in ordine, perfino il disordine dei giocattoli e delle cose abbandonate dai bambini. Sembra... sì, sembra tutto in ordine. Sopra di me vive un ristoratore. L'ho scoperto perché il nome sul citofono è lo stesso del suo ristorante, in cui ho mangiato un paio di volte. Probabilmente torna a casa di notte e la mattina dorme fino a tardi. Di fianco a me invece c'è un ragazzo di Perugia, lo sento dal suo accento cantilenante e dalle parole troncate sull'accento finale. Credo che studi, perché ogni tanto lo sento dire cose ad alta voce, da solo, forse ripete la lezione. Sotto di me invece c'è una ragazza. Urla al telefono e ride in maniera sguaiata. Forse è al telefono col fidanzato, o forse con un'amica. Ecco, mentre ascoltavo i rumori della mia casa da quella posizione privilegiata in mezzo a tutto, fissavo la parete bianca di fronte a me, con quel filo di luce gialla che di notte filtra dalle finestre della città. Improvvisamente ho come visto proiettato su quella parete, davanti a me, tutto quello che avevo fatto nell'ultimo anno di vita. Ho preso la mia vita e le ho dato una scrollata. Come si fa in autunno con gli ulivi, per raccogliere le olive. Ora sono qui, in mezzo, ma pronto a ripartire. Da una casa, almeno è già qualcosa. I'm so glad that I'm coming home. I've changed my ways. I don't lie or get stoned. Sweet as the sweet things I know that you like. I no longer argue and I don't care to fight. That I'm no longer tempted to roam. Ecco, spero abbiate capito cosa intendevo all'inizio quando dicevo piccole storie che non hanno episodi particolarmente straordinari, ma che raccontano tantissimo di una persona, di una famiglia, di un periodo, di un'epoca, che erano gli anni Ottanta. Arriva un messaggio a proposito che dice: grazie mille per il racconto e per gli Strokes. Per gli Strokes ringraziamo Tiziano Bonini, per il racconto invece ringraziamo direttamente Alberto. Pronto Alberto? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Io sto bene, grazie. Tu? Io sto benone, però tu hai questa voce che sembri sempre un po' sofferente. Allora, questa è proprio una questione di influenza, diciamo. Quindi, ah, sei influenzato? Sì, esatto, e questi giorni mi avete trovato con okay. Una messa male. Senti, quindi sei a casa? No, io sono comunque al lavoro perché a parte lavora, diciamo, non sto così male. Ma hai un viva voce per caso o sei in uno scantinato? No, sono nel mio ufficio che effettivamente è grosso e vuoto, quindi okay. Mi riferisce all'eco probabilmente. Sì. Senti, tu sei un consulente finanziario. Finanziario, esatto, sì. Quindi dai consigli su cosa comprare e cosa vendere. Esatto, segui i clienti. Quindi sei un fan di Sebastiano Barisoni. Lo ascolto spesso, sì. Senti, invece, torniamo a quella casa. I tuoi genitori ci vivono ancora? Sì, ci vivono ancora. E c'è ancora la tua stanza, oppure è stata trasformata in un magazzino? Mia mamma, la mia stanza, tipo, ci stira, ci mette le robe sue. No, in realtà la stanza mia e di mia sorella, perché poi in realtà abbiamo sempre dormito insieme, è ancora praticamente identica a quando abbiamo lasciato la casa, perché entrambi siamo sposati, quindi è rimasto tutto uguale. C'è un piccolo mausoleo praticamente. Esatto, sì. Senti, invece c'è una cosa che ha un po', non dico sconvolto, però ha incuriosito tutti quanti, ed è nell'80, abbiamo fatto due calcoli, tu sei del 78. 79. Quindi a 10 anni ti sei trasferito, era il 89. Esatto, sì. E tu fino all'89 con la tua famiglia hai vissuto in una casa senza riscaldamento. Sì. Abitando al nord, tra l'altro. Esatto, sì. Era una casa, un grosso appartamento, ma molto vecchio, in cui c'erano due stufe a gas, una in cucina e una in bagno, e praticamente passavamo quasi tutta la giornata in cucina. E ricordo benissimo che quando io e mia sorella d'inverno volevamo giocare, e magari ci mettevamo in corridoio in camera, giocavamo con la giacca a vento, la sciarpa, la berretta. La berretta, berretta è magnifica. La berretta è proprio mia zia Mina la chiama la berretta. Senti, scusami Alberto, nel tuo racconto io, forse perché sono un inguaribile romantico, ma ci ho letto almeno due o tre cose. Non c'è solo chiaramente l'ingresso in una casa, ma c'è un'infanzia di un uomo di 30 anni, cioè tu più o meno hai la mia età, io ne ho due o tre di più, però quattro di più. Però cioè l'infanzia, gli anni 80, l'oratorio, il catechismo, quelle cose lì dei cartoni animati alla televisione al sabato, mi facevano il bagno mia mamma con si vedeva però dalle mie parti, non dalle tue, quella roba della televisione svizzera, lo scacciapensieri era un programma che andava in onda sulla TV svizzera, si vedeva nel Novarese, nel Varesotto, vabbè, tant'è. E quindi ci leggo una parte della tua infanzia, però ci trovo veramente una sorta di ringraziamento ai tuoi genitori anche in questa storia, che tu fai apertamente, ma non solo, no? Cioè nel modo in cui li racconti e parli di loro in generale. Sì, diciamo che i due aspetti del racconto sono l'evento in sé, che chiaramente mi ha eccitato come bambino, e quindi la giornata la ricordo, e anche quella nottata la ricordo ancora bene. Poi col tempo, quel ricordo che è sempre rimasto vivo, si è un po' trasfigurato e è diventato un po' nella mia mente il simbolo, l'emblema comunque di tutti i sacrifici che i genitori hanno fatto nel corso degli anni. Diciamo. Quanto manca perché tu diventi papà? Agosto, quindi 3 mesi circa. Agosto, allora in bocca al lupo Alberto, e grazie per il racconto. Grazie a voi. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. A proposito degli oggetti portati nei traslochi, le prime cose che portavo, dice Giulio, in tutti i traslochi erano i quaderni delle elementari e delle vecchie foto, a proposito di malinconia. Voi siete qui. Alberto, nella foto che ci ha mandato, è nel bel mezzo di un'azione, credo di un terzo tempo di basket, se so cosa dico e so cosa voglio dire, terzo tempo. La foto è in bianco e nero, ma per un problema di stampante, immagino, vero Marghi? La foto è a colori in sé. No, era proprio in bianco e nero, c'è proprio della malinconia, c'è una grande passione per le cose andate in Alberto. E ci sono due tizi molto alti, vestiti di bianco, alle sue spalle, uno che salta con un'apertura di braccia da 2 metri, e lui invece, Alberto, è accovacciato. Devo dire, la posizione non gli rende proprio merito, cioè se uno sa come funziona il basket, immagino che, come mi scrive Margherita, Alberto è quello che sta per tirare a fianco della foto, immagino che stia per alzarsi verso il canestro, altrimenti deve essere un controtempo giusto, perché gli ha fatto una finta, giusto? Questo è saltato, adesso lui lo frega, e quindi è nell'atto di andare a canestro, però ripeto, la posizione è abbastanza ridicola. Le foto sono di cui vi parlo e che vi racconto sono sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, dove trovate anche la mappa. Ecco, una cosa, dove c'è la mappa? Come si accede alla mappa? C'è una sorta di banner di Voi Siete Qui col punto rosso, cliccate lì sopra, cliccate lì e si apre la mappa. Siamo ormai a questa, che puntata è? La 180... questa è la 184esima puntata di Voi Siete Qui, quindi è la 183 84esima storia che ci arriva ed è il 184esimo punto sulla mappa. Adesso comincia a fare un certo effetto quella mappa che trovate sul sito della D24, proprio lì dove c'è scritto voi siete qui, cliccateci sopra. Ci sono un sacco di messaggi che raccontano che cosa si porterebbero nella casa nuova e che cosa si sono portati. Non è poetico, ma il mio MacBook, i libri e una radio, una foto dei miei genitori da ragazzi, la mia PlayStation 3, il mio cane, ho 8 traslochi e sempre per prima la macchina fotografica, le pantofole, i miei DVD e la mia collezione di farfalle. Ma proprio perché partendo dal racconto di Alberto ci si rende conto che la casa è un luogo come un altro, insomma è un oggetto con delle pareti, è quello che c'è dentro che fa la differenza. Abbiamo l'ha trovato Tiziano ed è un libro molto interessante se lo trovate in giro, e lo trovate perché è di recente pubblicazione, vero Tiziano? Si intitola Breve storia della vita privata, è scritto da Bill Bryson che è autore di un altro libro che era un bestseller che si chiamava Breve storia di quasi tutto. In questo libro qua lui fa una cosa, è un espediente narrativo però è interessante, per raccontare la vita delle persone, la vita privata storicamente diciamo delle persone, fa un giro per casa sua, gira per la sua casa come se la vedesse per la prima volta, come se ci fosse per la prima volta, entra in ogni stanza e racconta la storia degli oggetti di quella stanza e anche la storia degli usi e dei costumi di quella stanza, per cui la cucina, il bagno. Io ho preso un piccolo capitolo di cui vi voglio leggere un pezzo che è dedicato alla camera da letto. Ecco, è come se lui entrasse nella sua camera era da letto e vedesse nella storia la storia di quel luogo. La camera da letto è uno strano posto. Non esiste altro luogo in tutta la casa in cui passiamo più tempo facendo di meno e facendolo per lo più in silenzio e senza averne coscienza. Eppure è la camera da letto che fa da sfondo a molte delle più profonde e persistenti infelicità dell'esistenza. Se siete in punto di morte o malati, esausti, sessualmente frustrati, in lacrime, in preda all'ansia, troppo depressi per affrontare il mondo o comunque privi di serenità e di gioia, la camera da letto è il luogo in cui sarà più probabile che vi troviate. È così da secoli. Alla vita che si consumava dietro la porta della camera da letto venne ad aggiungersi una dimensione del tutto nuova, però, la paura. Nessuno aveva mai avuto più ragioni di cui preoccuparsi in uno spazio limitato dei vittoriani nelle loro stanze da letto. I letti stessi diventarono una fonte di particolare inquietudine. Sembrava che non appena si spegnessero le luci, anche gli individui più puliti si trasformassero in masse fumanti di tossine. L'acqua emessa nella respirazione, spiegava un esperto, è piena di impurità animali, si condensa sulle pareti interne degli edifici e cola in feti di rigagnoli e penetra nei muri. Alle coppie sposate si raccomandava l'uso di letti singoli, non solo per evitare il brivido vergognoso di un contatto casuale, ma anche per ridurre la mescolanza di impurità personali, come spiegava in toni cupi un'autorità medica dell'epoca. L'aria che circonda il corpo sotto le lenzuola è estremamente impura, impregnata com'è delle sostanze tossiche fuoriuscite dai pori. Fino al 40% dei decessi in America, stimava un medico, era causato dall'esposizione cronica all'aria malsana durante il sonno. Times in Babylon. That's what I'm counting on. Before the dam goes up at the foot of the sea, before the new wing of the prison ribbon ceremony, before the star of the morning comes looking for me, I soprattutto i libri, quelli di cui volete le cose, di cui non riuscite a fare a meno e di cui riempite le vostre case, a giudicare dai messaggi che arrivano sul profilo Facebook. Porto i libri, porto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e la mia prima bambola, una foto d'infanzia in braccio a mio nonno, libri ancora, tutti i libri. Vabbè, Lara scrive, mi piacerebbe traslocare. Porto mia nonna, scrive Giuliano, la porto prima, se no me la dimentico. Sei veramente una merda, Giuliano. Le mie piante, Antonella, Rita, le persone che amo, Selene, i miei libri, niente, libri, Piero, i miei bonsai. E poi arrivano messaggi al 349-238-6666, anche lì, una scimmietta di peluche che mi regalò mio padre nell'81. E poi, nei traslochi ho sempre portato per prima cosa il mio orsacchiotto, regalato al battesimo, ora ho 33 anni, e la bandiera della Juve. E poi... Oh, è tornato Giampaolo da Zocca, era da un po' che non ci scriveva, Zocca c'è. Ciao Matteo, come si chiama il tuo libro? So che non ti piace parlarne, ma a me serve per scriverlo. Per scriverlo dove, Giampaolo? Per segnartelo, per scriverlo. Vai su Google, è facile. Se scrivi Matteo Caccia libro, lo trovi, è abbastanza semplice. A proposito di libri, continua la scalata dell'ebook, di voi siete qui alle classifiche di tutto il mondo, è un po' dura, alle classifiche italiane, scaricatevelo dal sito di Radio 24, le classifiche italiane, sembrava super classifica show. Grazie a Paulino Corleone, Tiziano Boni e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Alberto, parlava della propria casa, quella di domani è la storia di Luca e parla di finali. Maggio 2010. Devo decidere dove vedere la finale di Champions. Devo scegliere dove vederla, con chi e come. Su Google Inter Club Indonesia e li trovo. Scrivo un post nel forum. Mi risponde Mr. Bobo. L'appuntamento è per sabato 22 maggio al Rix Café a Jakarta Sud, vicino al distributore della Shell, a mezzanotte.